Mi piace questo progetto di un'altra Radio de Roma. Si dice così, dice così, dice così. Ragazzi, siamo partiti. Ragazzi, siamo partiti. Tidi, tidi. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Bella regà. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ragazzi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. In Artra, Radio Roma. Che emozione, che emozione. Sono qui pronto per lanciare nuovi pezzi. Pronto per darvi un altro po' di roba. Pronto per darvi un altro po' di roba. Pronto per darvi un altro po' di roba. Perché noi non siamo de pelastica. In Artra, Radio Roma. Amici e amiche dell'Artra Radio Roma, salve a tutti! Oggi a Mr. Gasperino è toccato il piacevole compito di presentarvi una band di Rovigo, una band autoprodotta e sotto licenze lontane da quelle SIAE, proprio come piace a noi. Dopo riunioni fiume, in redazione abbiamo pensato di presentarvi la formazione in questione attraverso un live intervallato da un'intervista. Il live è quello del 1 maggio del 2010, quindi di quest'anno, a Polesella, in provincia di Rovigo, dal titolo Rock for Pace. Loro sono gli Entropica e in studio oggi è venuto a trovarci Emanuele, ma lascio a lui il microfono per presentare la formazione. Ciao a tutti, come diceva il nostro amico, noi siamo gli Entropica e siamo qui per un'intervista sulla nostra band. Ricordiamo che è composta da me, Emanuele Brizzante alla batteria, Sofia Verda alla voce e qualche volta alla chitarra, Davide Andriolo alla chitarra e Niccolò Beccati al basso. Entropica, dunque. Quindi la prima domanda che mi viene in mente da porvi è proprio questa. Il nome del gruppo dà un'identità alla stessa formazione. Quali sono state le ragioni che vi hanno spinto a scegliere questo nome? Il nome Entropica ha un significato un po' particolare, si riferisce ovviamente al principio fisico dell'entropia, cioè il caos primordiale presente nell'universo. Una cosa un po' particolare, insomma. In che modo si rispecchia nella nostra musica? Beh, tentando di sfuggire dalle etichette, dalle semplici classificazioni, le solite che vengono fatte, che diciamo spesso sono negative, perché rappresentano una perdita di identità del gruppo stesso, secondo me. Noi pensiamo che questo significhi contrastare l'attuale equilibrio della scena italiana e internazionale. L'equilibrio esistente che consiste in quella miscela di elementi per cui la musica continua a riproporsi sempre nello stesso modo, con gli stessi stilemi, gli stessi simboli, e continua dentro generi che proseguono senza evolversi e utilizzando le stesse formule che una volta dimostrate come vincenti vengono sempre ripetute. Quindi questo nostro caos consiste anche nell'evitare di entrare in queste categorie e diventare a lungo andare vittime di queste categorie. Ecco perché è entropica. Bene, bene, bene. Direi di cominciare a farvi conoscere attraverso la vostra musica, quindi vado a lanciare il primo pezzo che si intitola Vertigine. Trovare in fretta l'unico ciò su cui costruire il mio futuro. Voglio ogni singola possibilità, anche se vorrei solo lasciar accadere quel che accadrà. Vorrei affidarmi al caso e non alla mente. Vorrei vivere in base a ciò che mi capita, senza comandare tutto con questa maledetta logica. Vorrei ritrovare la spensieratezza negli occhi, composto di mille colori. Vertigine. Bene, siamo rientrati in studio dopo aver ascoltato il primo brano, così cominciamo a renderci conto di quale tipo di musica propongono questi giovani di Rovigo. E voglio chiedere a Emanuele, se qualcuno ti chiedesse o chiedesse alla vostra formazione di definire il vostro genere musicale, senza dare necessariamente delle etichette, perché poi queste sviano, non aiutano, anzi, spesso etichettando includono i gruppi in un recinto dal quale poi non riescono più a uscirne fuori, potresti spiegare ai nostri ascoltatori che tipo di musica proponete? Beh, la nostra band propone un alternative rock, come lo definiamo, però bisogna specificare che è un alternative rock molto personale, libero da influenze che ne possono compromettere l'originalità. Spesso in altre interviste o guardando anche il nostro space, il nostro Facebook, citiamo band come After Hours, Verdena, Muse, Placebo, Le Luci della Centrale Elettrica, ma questo solo perché sono essenzialmente un elenco delle band che a noi piacciono e sono band che ascoltiamo, e per questo, come qualunque musicista sa, e si potranno riscontrare poi nelle nostre canzoni anche degli elementi che ricordano queste band. Questo non significa che noi assomigliamo agli After Hours o assomigliamo ai Verdeno o ai Muse, significa semplicemente che abbiamo un background di quel tipo. Certo. Anche perché, insomma, quando noi andiamo a comporre una canzone non andiamo a pensare di imitare qualcuno o di farci liberamente influenzare da qualcuno, è un processo spontaneo, quindi potrebbe venire una direzione potremmo seguire una direzione durante una canzone e quella opposta in quella successiva, quindi avvicinarsi ed allontanarsi da uno stile nel giro di un paio di canzoni, ecco, quindi entropica è l'unico modo in cui possiamo definirci, senza citare band o generi come l'indie, il rock, l'alternative, che sono termini abusati e che spesso, e come dicevo prima, allontanano la band dalla sua vera identità. Entropica è il modo migliore, penso. Io ho ascoltato attentamente il vostro materiale ed la domanda che voglio porvi è questa. Dai vostri testi emerge una gran voglia di parlare di voi, di quello che vi circonda, di quello che è la società. Come nascono i vostri brani? E che cosa soprattutto volete comunicare a chi vi ascolta? Beh, per riallacciarmi anche alla domanda di prima, i nostri brani nascono spesso dall'improvvisazione. Ovviamente con dei livellamenti e dei miglioramenti che facciamo successivamente, che apportiamo poi col tempo, prima di dichiarare, diciamo, finita un pezzo. Mm-hmm. Come degli artigiani. Insomma, un lavoro un po' di rifinitura, poi durante il tempo, durante i concerti, eccetera. E i testi invece nascono in diversi momenti. Qualcuno è composto in presenza degli altri musicisti, quindi in sala prove, lasciandosi ispirare dalla musica suonata dagli altri in quel momento, quindi... o dalla canzone che è composta prima senza testo e quindi con i suoi riff, le sue parti, insomma le sue note, ispirerà il testo. In questo caso avremo magari un testo più astratto, ecco, potremmo dire. Altri nascono magari in momenti d'ozio dei compositori, che siamo io, Sofia e Nicolò, quindi scriviamo i testi a tre mani. E chiaro, chiaro. Ci mettiamo lì in qualche momento delle nostre giornate, scriviamo dei testi che poi vengono applicati a canzoni, magari con qualche aggiustamento sulla metrica o sui termini, e niente, possono essere testi molto intimi alcuni riguardanti noi. Quello che vogliamo comunicare è essenzialmente un insieme di emozioni, di situazioni che possono capitare a tutti quelli che ci ascoltano. Ad esempio nella nostra canzone Reazioni parte 1, che non è presente però nel live che stiamo diffondendo anche grazie alla vostra radio, si parla delle reazioni che una persona ha dopo il fallimento di una storia, che può essere una storia d'amore, ma anche un rapporto con un'altra persona a livello d'amicizia o a livello lavorativo. Questa sì, presente nel live, parliamo del bisogno delle persone, a volte nato da esigenze realmente presenti, come magari il bisogno di avere, che ne so, dei soldi, una famiglia, degli amici, o a volte è un'esigenza indotta da persone che hanno in mano il potere e la possibilità di influenzare gli altri, quindi i media, la politica, eccetera. Sono tematiche che possono interessare tutti, suppongo, bene o male, tutti siamo stati qualche volta suggestionati dalla pubblicità nell'acquistare un prodotto, ecco, quindi era un tema particolare, questo testo l'ho scritto io, mi piaceva parlare di questo argomento, insomma, in maniera personale. Sì, insomma, in generale ci piace parlare di noi e di ciò che ci succede, senza risultare però troppo intimi, troppo chiusi, troppo ermetici, in modo che tutti quelli che ascoltano si possano sentire vicini alle nostre parole. Quindi, insomma, sono testi di natura, chiamiamola universale, per raggiungere tutti, per farsi sentire da chi ci ascolta come uno di loro, non come qualcuno che si pone superiore e inizia a fare giochi poetici e cose di questo tipo, che non sono cose che ci piacciono. Infatti abbiamo un linguaggio molto semplice, come potete appurare voi stessi. Hai citato Hai bisogno di aver bisogno, appunto, degli Entropica, quindi andrei proprio a lanciare questo brano qui su NRR. Hai bisogno di aver bisogno degli Entropica, per l'appunto. La prossima canzone si chiama Hai bisogno di avere bisogno. Il significato dovrebbe essere che ognuno di noi necessita di affidarsi a qualcosa. Sempre. Cioè, ha sempre bisogno di aver bisogno di qualcosa. Esistere. chiunque abbia un cervello. Ci pensi che Dio non è poi così bello. Hai bisogno di avere bisogno, insegui da sempre quell'ombra che ti tolga tristezza e risveglio e che tu sorrida se rifai quel sogno. Hai bisogno di avere bisogno, insegui da sempre quell'ombra che ti tolga. Io te l'avevo detto che pure l'essenziale fa poi un certo effetto. Il delirio ti costa decine di ore, la testa che brucia non sente dolore, il dolore, mancanza di panico, vuoi festeggiare la morte se prende che ti sa aspettare. Poche le lacrime che io te l'avevo detto, che pure l'essenziale fa forza di fianco. Sempre quell'ombra che ti tolga tristezza e risveglio, che tu sorrida se rifai quel sogno. Ci troviamo nuovamente qui con Emanuele degli Entropica. Durante il brano facevamo due chiacchiere e la domanda nasce appunto da quello che ci dicevamo ed è la seguente. Cercare di farsi conoscere e cercare di far conoscere la propria arte è sempre più difficoltoso, è sempre più difficile. Avete pensato di promuovere la vostra musica con un live? Scelta molto azzardata, secondo me, in quanto il concerto dal vivo mette in evidenza inevitabilmente le pecche del gruppo o del singolo elemento, i difetti, le lacune. Perché non avete pensato ad un album in studio dove sicuramente avreste avuto un risultato migliore per proporre la vostra musica? Sì, questa sarà una risposta un po' terra terra comunque. In sostanza il motivo per cui non abbiamo iniziato con un live con un album in studio è la mancanza di soldi. Essendo queste registrazioni molto costose, come i nostri colleghi musicisti in ascolto sapranno, abbiamo deciso di posticipare la cosa a tempi migliori. Non c'era un piano d'azione, per cui non abbiamo deciso precedentemente di iniziare la promozione con un live. Noi abbiamo registrato questo nostro live per gioco, così insomma abbiamo detto collega il portatile al mixer, registra, vediamo cosa viene fuori, e questo concerto è venuto abbastanza bene secondo noi, quindi abbiamo deciso dopo insomma un ascolto preliminare di inserirlo come primo assaggio all'interno di siti, social network e quant'altro. Poi abbiamo deciso anche di iniziare a promuoverlo tramite qualche canale radio indipendente, insomma un po' diciamo così dell'underground qui italiano. Quindi abbiamo contattato radio come la vostra e sembra che questo ci possa anche aiutare un po', no? Grazie anche a questa intervista, magari, chi lo sa. Probabilmente registreremo e diffonderemo altri live prima di arrivare al primo lavoro in studio, perché purtroppo non è previsto a breve termine, quindi l'unico modo che abbiamo di farci un po' conoscere è magari riempire internet, MySpace, Facebook, insomma di accenni a quello che facciamo, in modo che la gente magari si abitui prima di avere un lavoro di qualità un po' migliore. Guardando il lato positivo, possiamo dire che un live come questo, che quindi mette in risalto anche i piccoli errori che ci sono in un live, che tra l'altro sono le cose che secondo me fanno bello un live vero non ha tutte le sovraincisioni, le correzioni che vengono fatte nei DVD delle band famose, un live vero ha l'anima rock, è un live, insomma, ha delle imprecisioni, di piccoli scazzi, di piccoli errori che sono giusti, devono esserci, perché nessuno è preciso, nessuno è una macchinetta, quindi certo. È giusto, no? È un live che da un lato penalizza il risultato finale, perché c'è chi nella parte critica della musica, i recensori, i critici, eccetera, per un piccolo errore stroncano tutto, diciamo così, perché cercano la perfezione, insomma c'è questo tipo di filosofia di pensiero. Ma c'è un aspetto positivo, che è quello, insomma, di far conoscere la band anche per la sua carica live, prima ancora di avere una registrazione in studio. Quindi qualcuno che abbia voglia di informarsi può aprire il nostro MySpace, www.myspace.com/entropicaband, e nota che oltre alle canzoni di questo live ci sono anche i video su YouTube linkati anche su questo MySpace, in cui guardare il live anche, insomma, a livello visivo. Quindi guardando le immagini si nota anche il modo in cui la band si pone davanti ad un concerto vero e proprio, quindi è un'esperienza diversa, ecco. Quindi vi consigliamo anche di andarla a guardare, così potete ben capire com'è un nostro concerto. Diciamo allora che questo live era l'unico modo che avevamo di promuoverci in attesa di tempi migliori, e insomma, stiamo tentando di sfruttarlo nella maniera migliore possibile, contattando anche situazioni come la vostra. Sai, da quando sono nel mondo della musica, ossia da quando sono nato, ho sempre sentito da tutti gli artisti, sia minori che maggiori, che ogni formazione musicale, ogni artista stesso, cerca sempre di essere originale, di scoprire un genere musicale e creare un proprio sound. Gli Entropica, come pensano di riuscirci? Beh, noi Entropica, come dicevo prima, non abbiamo una categoria dove ci piace inserirci, né componiamo canzoni seguendo schemi precisi. Forse è proprio per questo che pensiamo di riuscire a creare qualcosa di originale, perché evitando paletti, schemi precostituiti, ispirazioni forzate, come invece molte band fanno, si riesce a creare un percorso più personale, più individuale, dove quello che senti in quel momento ad animarti non è l'imitazione, la volontà di assomigliare ad altri, la volontà di seguire delle formule vincenti che già si sono dimostrate come tali, e quindi tu vuoi utilizzare come riparo, ecco, per scoprire la tua mancanza di originalità. Noi sentiamo che la nostra musica non è niente precedentemente esistito, insomma, con un minimo di presunzione, è una cosa nostra che noi Entropica componiamo da zero, diciamo così, da una tavola bianca, e ci sentiamo originali, ecco. Poi sarà, insomma, la gente che ci ascolta, la gente che ci conoscerà in futuro a darci un verdetto a riguardo. Speriamo di riuscirci, ecco, ad avere qualche riconoscimento della nostra presunta originalità. Poi chiaramente ci affidiamo al giudizio della gente, ecco. Sicuramente ci riuscirete, e ve lo auguro con tutto il cuore. Quindi vado a lanciare il prossimo brano, che si intitola Contatto. Si chiama Contatto perché la musica mi ricordava una persona che si avvicinava ad un'altra e cercava di toccarla. Non sei pizzico di soppiatto, davvero un nuovo contatto. Pizzico di soppiatto, davvero un nuovo contatto. Pizzico di soppiatto, davvero un nuovo contatto. Pizzico di soppiatto, davvero un nuovo contatto. Eccoci rientrati in studio e siamo ancora qui con Emanuele. Spesso parlando con gli artisti emerge quanto è difficile promuovere la propria arte nelle proprie terre, soprattutto un po' come i poeti di una volta che cercavano di esprimere i propri concetti all'interno delle terre in cui vivevano e non ci riuscivano. Voi quale difficoltà avete incontrato per farvi conoscere a casa vostra? Beh, a casa nostra la situazione è terribile, non mi vergogno a dirlo. Rovigo è veramente priva di contesti dove suonare, a parte qualche piccolo festival, e attorno la situazione non è migliore. Tutto è monopolizzato dalle cover band, oppure da altre piccole mafiette che fanno suonare alcune band in certi locali escludendo le altre, eccetera, eccetera. Ci sono modi per evitarlo, insistendo con i locali, con le radio, fino allo svenimento, insomma, bisogna entrare in un'ottica di insistenza, secondo me. Oppure si può tentare di combattere questi sistemi nel sistema, come si possono definire. Sono sistemi nel sistema, ecco, della discografia che la rovinano da dentro e appunto per combatterli si può entrarci, provare a entrarci e provare a ottenere qualcosa in questo modo. È più facile suonare vicino perché non hai molte spese e visto che le band di prima esperienza trovano molta difficoltà nel farsi pagare anche una semplice cena con birra e con un piccolo rimborso spese del pedaggio che paghi dall'autostrada, direi che non è neanche concepibile per noi la ricerca di una data per esempio a Napoli, a Genova, a Milano, Roma, dove solo di spese spenderemo più di 100 euro per andarci, ecco, e i locali qui da noi perlomeno se non sei una cover band più di 50 euro non riescono a darti, anzi a volte non ti danno neppure quelli, a dire la verità. Questa è una situazione devastante per l'arte, perché in sostanza nasce e muore dove vive, e la cultura rimane stazionaria, vincolata alla regionalità, alla provincialità, ancora peggio, una cosa che tra l'altro la politica ha interesse nel promuovere, visto che al governo ci sono elementi come la Lega Nord che vuole circoscrivere, ecco, una parte dell'Italia e quindi lasciar marcire al suo interno quello che nasce nella nostra zona e anche tra l'altro nella nostra pianura padana. E non bisogna dimenticare che la musica è cultura, i testi sono letteratura, è arte questa, quindi bisogna farla girare, bisogna promuoverla, lo Stato dovrebbe supportarla, ma si sa che i tagli alla cultura sono sempre dietro l'angolo e ultimamente abbiamo avuto un assaggio, quindi la situazione non è il massimo, soprattutto nella nostra zona. Siete una band emergente, quindi è chiaro anche dalla risposta che ha dato poco fa che vi esprimete soprattutto nelle vostre terre e nel vostro territorio, in questo caso, come tu ricordavi, a Rovigo e nella Padania, perché lo hai ricordato tu, perché qui noi politica non ne facciamo, parliamo solamente di musica, non è vero. Se un musicista, se una persona dovesse chiedere all'Intropica come è la situazione musicale a Rovigo, cosa ti verrebbe da rispondere? Beh, Rovigo, come dicevo anche prima, è una città culturalmente addormentata, c'è un continuo stato di sopore che continua a mantenerla, diciamo, in catalessi, quasi, anzi, narcolessia, potremmo dirlo. Storicamente ha sempre stimolato poco questi ambienti, e così non sono mai nati locali, circoli, cose di questo tipo. Ci sono alcuni accenni ultimamente di circoli arci e cose analoghe, ma rispetto a qualsiasi altra città che mi è capitato di visitare la situazione è molto molto brutta. L'arte esiste, ma è un altro tipo d'arte. La musica rock, alternativa o ancora peggio se è metal è molto snobbata, sembra quasi qualcosa da inserire in un girone dantesco, cioè diciamo che c'è l'ignoranza ancora di alcune persone che vivono ancora racchiuse nella mentalità vecchia filocattolica e insomma che si appoggia a quello che la TV gli dice di ascoltare, la musica pop, la canzonetta sanremese, e sentono una distorsione e già ti danno del satanista nei paesi attorno a Rovigo. In città la cosa insomma sta migliorando, chiaramente c'è un sacco di gente che ascolta questo tipo di musica, però mancano gli spazi e quando ci sono vengono sovvenzionati poco e tutto muore lì. Questa è la verità, penso che succeda così anche in altri contesti, però dalle testimonianze che ho avuto di altre band che non vengono da Rovigo la situazione sembra essere leggermente migliore dalle loro parti, soprattutto in Emilia Romagna, magari anche verso Roma, verso Milano, mentre diciamo il Veneto è abbastanza ancora addormentato su questo fronte. Però per quanto è disastrosa, come tu dici, ci sono gruppi come i tuoi o come altri che hanno già contattato questa radio che propongono una buona musica. In questo caso gli Entropica ci presentano un rock alternativo meritevole e pertanto ci andiamo a ascoltare il prossimo brano qui su un'altra Radio Roma, L'Uomo Perfetto. La prossima canzone si chiama L'Uomo Perfetto. Questa canzone parla dell'omologazione, e parla del fatto che in realtà molte volte l'uomo perfetto è l'uomo più diverso di tutti. Thank you. scelte una dietro l'altra, pensate o meno, fan parte di un'ingenua corsa ostacoli. Ma poi qualcosa cambiò, persone a copiare, anime e mentalità, acquistare niente per avere poco più di niente. Perché vuoi essere come loro? Perché vuoi essere come loro? Sarebbe stato meglio un luogo diverso, per questo che hai fatto. Perché vuoi essere come loro? Perché vuoi essere come loro? Sarebbe stato meglio un luogo diverso, per questo che hai fatto. Per questo che hai fatto. Siamo rientrati nello studio, qui oggi è venuto a trovarci Emanuele degli Entropica, stiamo facendo una bella chiacchierata a 360 gradi, e pertanto andiamo avanti e assumiamo un aspetto formale, un po' in frac, vado a porre la domanda classica che si pongono a tutti gli artisti, aggiunti a questo punto ti chiederei quali sono i prossimi progetti futuri, cioè gli Entropica. Che cosa prevedono nel loro futuro? I nostri progetti futuri, bella domanda. Guardare a domani significa anche rischiare di perdere un'occasione oggi, dicevano alcuni. No, comunque chiaramente abbiamo dei progetti non ben precisati, ma che ci diciamo così, ci spingono verso la direzione della promozione live, prima di tutto. Stiamo cercando molti concerti, come potete vedere anche sul MySpace che dicevo prima, sempre qui in zona, e vorremmo intanto farci conoscere prima di dare delle previsioni temporalmente inquadrate. Diciamo che nel 2011 vorremmo avere la prima registrazione in studio e un bel numero di concerti alle spalle, Questa è un'idea di ciò che ci piacerebbe fare. Poi è essenziale continuare la promozione come stiamo facendo ora, con interviste in radio, su siti, live, qui da noi, magari anche fuori, si spera. Stiamo contattando qualche locale in Friuli, Venezia, Giulia, Trentino, Emilia, insomma le regioni limitrofe. Ma è difficile, sempre per la storia che dicevo prima, muoversi. Poi vedremo quando avremo registrato il nostro disco, se lo diffonderemo in qualche maniera in alternativa, magari gratis, oppure contattando etichette indipendenti, web label, cose di questo tipo. C'è sempre, insomma, ci sono un sacco di possibilità al giorno d'oggi con internet, quindi le scelte sono molteplici. Semplicemente prima di registrare un disco serve molta gavetta e servono anche i supporti economici, quindi possiamo anche progettarlo, ma non avremo mai la certezza di dire uscirà in quel periodo. Sostanza. Quindi i nostri progetti futuri sono live, promozione, insomma far conoscere il nostro nome, questo è quello che vorremmo fare. Da ex musicista o comunque da consumatore di dischi come sono, so che ogni formazione raggiunge la propria maturità o d'equilibrio musicale dopo circa 2-3 anni delle prime prove. Voi siete nati all'inizio di quest'anno. Credete che il vostro prodotto abbia raggiunto un buon sound? Beh, secondo noi il nostro prodotto ha raggiunto molto presto un bel sound. Proprio per questo ci siamo subito lanciati nel mondo del live. Diciamo che essendo tutti musicisti con esperienza di composizione e performance live alle spalle, ci siamo trovati fortunatamente con un grandissimo feeling e sala prove, insomma con meno di 2 prove a settimana, quindi 4 ore in tutto ogni settimana, siamo riusciti a creare uno spettacolo live di poco più di un'ora. Una cosa che io per esempio con la mia band precedente non ero riuscito a fare in 3 anni. Questo significa che se è vero che ci vuole tempo per affinare un sound e trovare il giusto equilibrio, c'è anche da considerare l'aspetto del feeling che dicevo, il modo in cui una band si trova con al suo interno, all'interno del proprio nucleo. È chiaro che col tempo miglioreremo come tutti, ma noi sinceramente ci sentiamo pronti e questo ci dà molta carica. Sai, siamo abituati a vedere le band trasformarsi e man mano che vanno avanti aggiungere elementi o a volte anche scoppiarsi e dividersi su progetti diversi. Pertanto ciò che ti voglio chiedere è questo: la formazione così composta è definitiva oppure avete in mente di introdurre nuovi elementi? Beh, la band è definitiva da 4 mesi. Prima c'era un periodo molto lungo, quasi un anno di cambiamenti e assestamenti, anche nel nome delle canzoni, nel nome del gruppo, tutto insomma è stato rivisto più volte. Siamo arrivati a questo punto solo a febbraio 2010 e poi siamo partiti insomma in sordina, adesso abbiamo fatto già parecchie date per una band nata da così poco. Non abbiamo comunque intenzione di cambiare nulla, ci piacerebbe però fare qualcosa di diverso. Avevo in programma di adattare qualche canzone in acustico, integrarla con un reading, lettura di qualche poesia, qualcosa di questo tipo, quindi ci starebbero bene potenzialmente qualche arco, quindi un violino, qualcosa di questo tipo, qualche tastiera, forse delle percussioni, qualcosa di non convenzionale, insomma. Lasceremo parlare il tempo, perché per ora non sappiamo ecco che direzione prenderemo. La prossima si chiama Universo Disconnesso. Thank you. se non ci pensi, perdi te stesso. Qualcuno ci ruba il tempo per riflettere, per scrivere le lettere, per guardare da un'altra prospettiva, con aria un po' meditativa, per gustare ogni boccone, per ridere di gusto, per dare coordinate al tuo cammino, per stringere la mano al tuo destino, la gioia di poter dire cosa sarebbe successo se il mio universo si fosse disconnesso, la gioia di poter urlare che posso continuare, per chi e per quanto chi lo sa, ma saperlo ora forse dirà. Un'altra radio Roma. So, perché mi sono informato, sai, non si affronta mai un'intervista senza conoscere chi devi intervistare, che durante i vostri concerti utilizzate delle poesie di Andrea Caporossi. Pensate che nel nostro paese è ancora possibile dare spazio alla cultura e all'arte? Beh, Andrea Caporossi è un amico di Sofia, la cantante. Lui scrive alcune poesie che purtroppo non hanno mai avuto diffusione mediatica, prestandoci e tenta anche di darsi visibilità, e noi siamo molto contenti di dargli una mano. Visto che così diamo una mano anche a noi stessi, ecco, perché riusciamo a dare, diciamo, concretizziamo un progetto non nostro tramite anche la nostra musica e la nostra arte. La cultura in Italia ha sempre meno spazi, anche per quanto riguarda la letteratura, quindi fare un incrocio, diciamo, di due tipi d'arte diversa era un progetto interessante. Adesso vediamo se riusciremo, come dicevo prima, ad approfondirlo con un reading o qualcosa di questo tipo, però sarebbe un progetto veramente interessante, veramente stimolante per noi. La situazione dell'arte in Italia è una domanda molto spinosa. Si va subito sulla politica, tento di evitarlo, ecco che magari è meglio. Diciamo che i tagli dei fondi delle ultime finanziarie sono stati pesantissimi, una vera scure, e l'interesse della politica nei confronti dell'arte, soprattutto quando al governo ci sono partiti come questi, è veramente minimi storici. È sotto il limite dell'accettabilità di sicuro. Stai parlando di politica, attenzione. Detto questo, per rispondere con più precisione, ti posso dire che con la mia poca esperienza, le poche città che ho visitato in Italia, ho avuto certezze sul fatto che gli spazi ci sono e la possibilità concreta anche di utilizzare spazi inutilizzati per creare, diciamo così, luoghi d'arte, musei, locali, luoghi per mostre, eccetera, eccetera, ci sono. Ce ne sono tantissimi in tutti i comuni italiani, sicuramente tantissimi. E basterebbe sovvenzionarli, finanziare le associazioni culturali, promuoverle, visto che sul territorio ce ne sono molte. Purtroppo non si fa nulla per queste cose, ci sono solo sporadici tentativi di uscire dall'anonimato fatti da queste associazioni, ma non sono stimolati dall'alto, sono stimolati dal basso, e non dovrebbe essere sempre così. Diciamo che la spinta dal basso dovrebbe arrivare a toccarsi con un aiuto dall'alto, e così nascerebbe qualcosa di nuovo davvero. Diciamo che il motto più adeguato per rispondere alla tua domanda è volere potere, ma il potere in Italia vuole fare altro, e si sa che sono loro a muovere i fili. Quindi, visto che i fili li muovono anche nel campo dell'arte, ormai è un campo destinato a morire, secondo me. E tutto questo è molto triste, visto che l'Italia è uno dei paesi con la tradizione artistica più antica al mondo, e il governo, quando è ora di fare cassa, lo sa. Essenzialmente non so cosa dire, ecco. Cioè, l'arte è una cosa tra le più importanti, è chiaro che quando ci sono degli altri bisogni il governo risponderà prima a quelli, però tagliare sempre i fondi alla cultura significa far morire una parte della storia del nostro paese, una parte della, e far fuggire anche una parte dell'intelligenza che c'è nel nostro paese, perché se l'arte esiste nelle scuole significa anche che ci sarà chi di arte vuole vivere. E se la cultura viene tagliata, gli artisti andranno fuori dall'Italia. E questo è veramente triste. E questo accade anche nel campo della musica, come ben sappiamo e come dicevo anche prima. Quasimodo, nella sua poesia Impercettibile il tempo, concludeva dicendo: diverso il tempo sul vortice del futuro, indeclinabile sul corpo che riflette la morte, scivola contorto, chiude la presa alla mente, scrive una prova di vita. Voi, nel brano Tempo al tempo, incominciate con i seguenti versi: come se potessi vivere il desiderio primo dell'uomo, perché l'eterna condivisione della felicità, nel muro del tempo le parole nel colore, il colore nelle parole, e io conosco le tue prima che evaporino nell'aria del tempo. Sbaglio o vi è una correlazione tra quello che diceva Quasimodo e quello che cantano gli Entropica? Aia, risposta difficile questa. No, sfortunatamente inoltre quelle parole sono tratte da una poesia di Caporossi, non sono fatte da me, quindi dovrei interpellarlo per rispondere alla domanda. L'autore del testo però sono proprio io. Tempo al tempo l'ho scritta io, e diciamo che con termini molto leggeri, però distanti dalla grande tecnica poetica di Quasimodo, ho deciso di parlare di come tutto cambi, tendenzialmente in peggio, potremmo dire, contrastando quella famosa frase che ormai si abusa, di cui ormai si abusa quotidianamente, cioè si stava meglio quando si stava peggio, che è una frase che non sempre rappresenta la verità. Nella frase «I tempi scorrono testardi, scambiano parole di polvere su muri che tu non sai più abbattere», che è una frase della canzone scritta da me, si ritrae un tempo che fugge, cioè un tempo che non si può fermare. Continua a testardo, quindi, incontrastabile, e ti lascia dietro parole di polvere, per cui parole che non hanno un senso perché con il tempo lo cambiano e lo perdono. E i muri che non sai abbattere sono i muri della tua memoria, cioè i muri dove le parole rimangono fisse in maniera indelebile, tu le puoi recuperare quando vuoi, però magari hai dimenticato il loro significato, l'hanno perso, come un muro di un edificio dove ci fosse scritta con una bomboletta un'offesa a qualche politico, a qualche personaggio famoso, poi abbandonando l'edificio dopo 50 anni, chi leggerà non capirà a cosa era riferita, quindi è il tempo che ha cancellato il significato delle cose, e può cancellare anche il significato dei nostri pensieri, anche il significato della storia, quindi potremmo leggere anche questa cosa in maniera critica, visto che ancora una volta per criticare il governo, diciamo così, c'è un tentativo di farci dimenticare la storia. È il tempo che fa cambiare la storia e il tempo aiuta chi ti vuole far dimenticare le cose. Magari a noi ricordare una scelta che abbiamo fatto è facile, però il motivo non sempre ti resta in testa, non è una cosa da sottovalutare. Probabilmente Quasimodo intendeva una cosa completamente diversa, ma ha definito, come dicevi tu, indeclinabile il tempo. Quindi definendolo in questo modo, in sostanza utilizza un termine che io personalmente condivido, e sicuramente anche Caporossi con le sue parole riterrebbe giusto, perché è un tempo che non ti ascolta, tu non puoi manipolare, è un tempo che puoi solo subire. E questo è, secondo me, un grande merito di Quasimodo averlo definito così, perché ci dà anche una chiave di interpretazione anche per la nostra canzone. Quindi mi sembra il caso di andare ad ascoltare Tempo al tempo. Nell'eterno corpo del tempo, nella vena dell'attesa ho scelto, servendomi del sangue del passato. Ricordando quando mi prendevi la mano per andare nelle onde immobili dell'immortalità. Come se potessi vivere il desiderio primo dell'uomo, perché è l'eterna condivisione della felicità. Nel muro del tempo, le parole nel colore, il colore nelle parole, e io conosco le tue prima che evaporino nell'aria del tempo. Tempo, tempo, tempo. Ora chitarra, Davide Andriolo. Al basso, Nicolò Beccati. Alla batteria, Emanuele Vizzante. Grazie. Siamo giunti alla conclusione di questa intervista, però prima di lasciarci vorrei porti un'ultima domanda, che è la seguente. Questa web radio ha un proprio credo, quello di trasmettere solo ed esclusivamente musica con licenza Creative Commons, l'unico sistema che permette agli artisti di essere padroni della propria musica. Voi siete artisti, che cosa ne pensate di questo progetto? Beh, io sono un fan di questo tipo di licenze personalmente. Ho sempre odiato la SIAE e tutto quello che la circonda, con tutte quelle cose tipo compilare il bordello e pagare i diritti anche su canzoni che sono tue e non sono iscritte, sono cose pazzesche secondo me per un paese democratico. Diciamo, l'arte dovrebbe circolare libera da vincoli, soprattutto quelli economici, e soprattutto quando sono vincoli economici che portano i soldi nelle mani di chi la musica non la vuole tutelare, come la SIAE vuole farti credere, la vuole semplicemente utilizzare per fare cassa, e che è un altro discorso. Io credo che una radio come la vostra sia essenziale per diffondere un certo tipo di musica, inserirsi in un certo tipo di canali che riescono a contrastare il predominio di quell'altro, dell'altro, del mondo altro, quello della discografia, della grande distribuzione, che sicuramente può anche far arrivare al pubblico musica valida, perché i contenuti ci sono. Ma questo tipo di principi che rappresentano le licenze come Creative Commons, sinceramente, sono molto molto più d'avanguardia, diciamo così, sono anche avanzate, sono simboli dell'evoluzione che si sta ottenendo anche in questo tipo di campo, e sono essenziali per chi vuole fare arte, secondo me. E poi il nostro primo album probabilmente sarà licenziato in questo modo o con qualche altra licenza free, ma visto che, come dicevo prima, non ci piace progettare, non mi sento di darti una risposta definitiva in merito. Sicuramente se lo registrassimo domani non lo salveremo mai sotto licenza SIAE. Abbiamo fatto una piccola sorpresa a Emanuele, è venuto a salutarlo Mister Campo, detto Nessuno. Se volete, Mister Nessuno, detto Campo. Lascio il microfono a lui per lanciare quest'ultimo brano. Bella raga, so Campo. Con voi ultima fase, anche Rovigo è in fermento. L'ultimo brano è l'Estasi. Loro sono Entropica. Entropica. Entropica. Entropica. Perdo me Caro Kempo, è giunto il momento di salutare. Mi sembra che sia stata un'ottima esperienza. Prima di lasciare il microfono a Emanuele, vuoi dire qualcosa? Niente ragazzi, complimenti, alla prossima e sicuramente seguiteci nelle nostre dirette su un'altra Radio Roma, grazie, ciao. Beh, è arrivato il momento dei saluti. Intanto grazie per l'intervista, speriamo sia utile, sicuramente lo sarà. Per quelli che stanno ascoltando, ricordiamo il MySpace, www.myspace.com/entropicaband. Oppure potete cercarci su Facebook semplicemente scrivendo Entropica e vedendo le nostre brutte facce. Potete ascoltare i nostri pezzi, lasciare commenti, guardare le foto e l'elenco dei concerti, insomma fatevi un giro, ecco, poi non perdete troppo tempo con gente come noi. Salutiamo qualche nostro amico, Galeans, Luke, le nostre fidanzate, fidanzati, visto che c'è anche una donna in gruppo. E niente, insomma, grazie dello spazio, speriamo di ricollaborare in futuro, ecco. Un saluto a Nartra Radio e a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti. www.nartraradioroma.blogspot.com. Ragazzi, Nartra Radio Roma è tornata. Questa è la mia trasmissione. Ragazzi, ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi, ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi, c'è tempo per noi, né nessuno. Ma proprio nessuno. C'è tempo, non è. Bastardi. Buonanotte a tutti. A tutti. E buonanotte a tutti. Buonanotte a Gattolino. Buonanotte a DJ Bruttolo. Buonanotte DJ Dogo. Buonanotte a nessuno. Buonanotte a tutti. E buonanotte a cazzo.